Adiu Paule, adiu Paule, adiu Paule, carnaval. Tu te invase, io de more, mangiare la strufa alla loli e la supo alla sau.